4 mattino. Eccoci con un ringraziamento all'Indietro Tutta che torna al maestro assoluto Arbore, maestro di televisione, di vita, un saggio italiano, e ovviamente grazie ai cani e gatti che tornano a graffiare stamattina qui. Vabbè, dai, mi hai fatto sorridere. Viva Arbore. Anche la foto di oggi, Oscar, la foto di oggi è un uomo che stringe con le due palmi della mano un ragazzo, un rich kids che piange. Quell'uomo è Bonucci, rich kids e Donnarumma, guadagna 6 milioni di euro ma è stato contestato tutta la partita e piange perché è un uomo fragile, il denaro non rende felice. Beh, ma lì a prescindere dal denaro è una questione di età e di carattere, di psicologia, si deve ancora formare a diventare adulta, e il problema è che intorno a sé ha una famiglia che appare, non voglio giudicare direttamente, ma da quello che appare, insomma, sembrano lì come dei corbacci appollaiati ad approfittarne, e questo lo rende fragile, come dici tu. Ma a me interessa, prima di tutto, anche come campione, si compromette come campioncino, farà papa, esatto, le abbiamo viste. Peccato per lui. Si costruisce anche su scelte controcorrente. Qual è la tua notizia di oggi? La mia notizia di oggi? Il tuo contributo alla causa? Io oggi ho... Proprio per quello che hai detto tu, ricordando con quella musichetta un grande, oggi mi sono pensato ancora un motivo in meno per essere storto, un motivo in più per essere storto nel pagamento della bolletta elettrica della Rai, perché tu lo sai che tutti i nastri magnetici, non è ancora digitale, di alto gradimento, la Rai li ha persi, lo sai questo, sì? Non lo sapevi. La Rai, sai che quante volte avrebbe, giustamente, io l'avrei comprati tutti, fatto i CD e tutti avremmo altro. Allora, capisci che ogni volta che mi viene in mente, quando ripropongo una delle grandi trasmissioni di Arbore, questa cosa mi viene un giramento di scatole. Ecco, volevo dirlo e ricordarlo a chi è in ascolto: non abbiamo neanche l'intera raccolta di alto gradimento. Ma che cavolo di servizio pubblico! Vabbè. Bello, quasi un sussurro, ma noi oggi abbiamo un personaggio straordinario che ci aiuta a raccontare un tormentone. E signori, i cani e i gatti oggi svelano una verità che nessuno conosceva sulla storia ormai leggendaria di Spelacchio. Spelacchio. Ebbene, Spelacchio, lo ricordo per chi non ha seguito le puntate precedenti, è uno splendido abete, no scusate, è uno splendido albero che viene dalla Val di Fiemme, e ha più o meno 100 anni di vita, ha visto due guerre mondiali, è sopravvissuto all'alluvione del 66, arriva a Roma, deperisce. Allora, dietro questa storia c'è una comunità fantastica, si chiama proprio Magnifica Comunità, non sono solo dei boscaioli, sono i custodi del bosco, sono dei sacerdoti che vivono lì, dei sacerdoti della natura. La Magnifica Comunità è nata nel 1111 fra le valli del Trentino, e loro non resistevano a questa idea di vedere il loro albero così malandato, Spelacchio. Allora hanno ripreso le foto che hanno fatto e hanno detto: ma noi l'abbiamo spedito, che era sano, che è successo? E scopriamo due dettagli. Uno, che questo albero ha viaggiato, cioè manco, che ne so, un viaggio della speranza, trasporto speciale, 3 giorni. Due, e questa è una cosa che notiamo per raccontare l'Italia, l'appalto per questo trasporto e l'allestimento è di 39.899 euro. Quando trovate i numerini, ve lo insegna Oscar, bisogna dubitare. Perché di 39.000, Oscar? Perché così non si rientra nella soglia per fare una gara. La gara. E si procede all'affido diretto. Affido diretto, c'era l'emergenza, perché non è che avevano previsto che era Natale, l'hanno fatto, doveva essere pronto il primo come dicembre, noto, hanno fatto il bando a novembre, che il 25 uno viene preso Natale. Così, è cioè, siccome ormai non è più sicuro neanche Natale, cioè, oddio c'era Natale, non ci avevamo pensato, affido diretto, però attenzione perché ora qualcuno dirà è la guerra pro e contro la Raggi, è 10 anni che il Comune di Roma fa così, sbaglia da 10 anni e ha sbagliato, secondo noi, anche la Raggi. Quindi tradotto, per ricordare come funziona, visto le centinaia categoria di responsabili di procedura, si chiamano così, che presiedono alle decine e decine di stazioni d'appalto e d'acquisto del Comune di Roma, significa che il dirigente responsabile di questa cosa da anni e anni si è seduto su questa prassi dicendo faccio così, mi muovo all'ultimo secondo, nessuno dice mai niente e vabbè pure quest'anno, punto, ma funziona così e sicuramente, come vi sto dicendo, non c'è la politica dietro. Allora, quando l'ho chiamato ieri mi ha raccontato tantissime cose che vogliamo regolare a voi sugli alberi, sulla natura, sulla filosofia. È con noi Stefano Cattoi, presidente della dirigente della magnifica comunità di Fiemme. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. 57 anni vissuti tutti nei boschi, vero? Non proprio tutti, perché prima abbiamo studiato un pochino, ho imparato a leggere e scrivere, però sono 30 anni che lavoro alla Magnifica. E lei dice che il legno ce l'ha nel sangue? Un po' di legno, ultimamente che un po' di segatura, visto che mi occupo anche di una segheria, dove certo. Tagliamo il legno, lo vendiamo un po' in tutta Italia e anche un pochino all'estero, non tanto, però intanto ce la facciamo anche a portare il nostro legno agli austriaci che se ne intendono più di noi. Una cosa molto bella che lei racconta, e qui diamo una piccola proprio, è la storia di questa comunità, che non è solo una comunità di persone che lavorano nella foresta, perché lei dice qui non ci sono castelli, spieghi perché. Perché questa comunità, come ha ricordato lei, che è nata 900 anni fa, ha avuto questa particolare caratteristica di fare sempre dei patti con chi governava, col principe vescovo soprattutto di Trento, e quindi in questi patti, il primo appunto si chiama Patti Ghebardini, sancivano l'indipendenza della comunità in cambio della difesa dei confini. Questo bellissimo. Ha dato luogo alla non costruzione dei castelli, perché a questo punto qua la Magnifica non era più un feudo vero e proprio, ma una libera comunità che si autogestiva. Allora, voi avete regalato quest'albero, escluse ovviamente le spese di trasporto, e lei dice che avendo questo amore per la natura, essendo vissuto in simbiosi, avendolo voi scelto, quando ha visto le foto di Roma le ha preso un colpo. Un pochino sì, ci siamo rimasti male, perché non è la prima volta che lo doniamo alla città di Roma e quindi le prime foto ci hanno fatto impressione. Dopo, vabbè, adesso il momento è superato, devo dire che insomma secondo noi stiamo facendo un po' troppo chiasso, però ci sta, siamo in Italia, un bellissimo paese. Io non partecipo ai social perché sono allergico a quelle cose là, ho solo un WhatsApp questi giorni, sta fumando, perché tra foto, commenti di amici, parenti, conoscenti, clienti e tutto è molto bello, anche se un po' di fastidio ce lo dà. Avrei coniato un nuovo aforisma, non so se si ricorda la famosa storiella. Fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. E il nuovo qual è? Fa più rumore un albero di Natale a Roma che un'intera foresta che cresce in Val di Fiemme. Perché finora nessuno magari si era accorto che c'è questa comunità lontana che vive tranquilla, bene, perché insomma ringraziamo di essere nati lì, ci troviamo bene, abbiamo un'economia discreta legata sia al legno che al turismo. Però solo una cosa, scusi, lei dice... Un mio amico. Sì. Cosa? Un mio amico mi ha scritto ieri, quando ho visto le foto dell'albero prima di partire, ha detto, bello, chissà, poverino, forse si è emozionato quando è andato a Roma, perché non aveva mai visto la città eterna, ha visto un po' di storia, il Colosseo, la Terra Pazio, tutte quelle cose, si è agitato e ha perso le foglie. Gli aghi. Ecco, no, però qui voi avete un'altra teoria, cioè lei dice tre settimane di floridezza, come si può dire, di floridità, l'albero doveva averle e quindi probabilmente è stato esposto a un calore molto forte durante il trasporto, non è stato curato abbastanza nel trasporto. Sì, però non possiamo, a me dispiace perché anche la gente che ci ha lavorato probabilmente ci avrà messo da suo e non penso che appunto... È brutto dire che qualcuno ha fatto qualcosa male, certo. Vabbè, lei non vuole gettare la croce, però croce ognuno se la deve portare, come le dicevo ieri. No, in Italia si getta, si vede che della Val di Fiemme, nella prassi italiana, la croce si getta sulle spalle degli altri. Lei invece, rigoroso, io lo apprezzo. Vediamo di non, me, mettere, esatto, ne abbiamo già tutte, esatto, le nostre, non gettiamole, Giannino. No, dai. No, ma bravo, ho capito cosa dice. No, vai, senta Stefano, mi piace la sua distinzione, la sua battaglia personale contro gli alberi di plastica. Lei dice non per ideologia, ma perché gli alberi veri, lei dice, conservano, trattengono l'anidride carbonica, quelli di plastica la restituiscono. Lei dice quindi meglio, se uno, un papà, vuole fare un albero, deve farlo vero. Io l'ho sempre detto, l'ho insegnato anche ai miei figli, l'albero quando cresce assorbe l'anidride carbonica ed emette ossigeno. L'albero di plastica evidentemente è fatto con materie più delle volte derivate dal petrolio e quindi... lei dice se c'è vero perché bisogna farlo finto. L'anidride carbonica. Certo. Prego. E l'ultima cosa, sul legno, lei dice il legno è il ciclo della vita. Perché... Perché nasce... Lo usiamo, muore, è un po' sul punto paradigma della nostra vita. Tenga presente che il nostro legno, noi vogliamo molto bene, viene utilizzato ad esempio per fare gli strumenti musicali. Certi violini sono stati fatti con l'abete della Val di Fiemme, violini famosi. Le anche case. Adesso c'è una bella diffusione di case in legno fatte con tecnologie nuove che però danno dei risultati molto molto buoni. Abbiamo ditte anche in Trentino e in Italia che riescono a fare delle cose straordinarie, anche grattacieli alti, molti sempre più piani, perché erano partiti con i 4 e 5, adesso si superano rapidamente gli 8 piani. No, senta, sono state ho fatte capito delle ricerche importanti. Che lei ama anche Spelacchio, ma la domanda delle domande è: se ve lo richiedono l'anno prossimo, glielo mandate un altro albero secolare? Guardi, verrebbe da dire a caldo no, ma io penso di sì. Fondo, come dicevo, Spelacchio è il paradigma della nostra vita, no? Tutti noi facciamo qualcosa con l'idea di fare qualcosa di bello, di buono, di utile agli altri. Poi durante le operazioni qualcosa non va bene, ci ritroviamo alla fine che abbiamo il risultato opposto a quello che volevamo. Ma a lei non è mai successo questo? Beh, questo tante volte. Ma Stefano, posso dirle una cosa, sì, alla fine di questo? No, perché io sono commosso nel sentirla parlare. Guardi, tra qualche settimana... No, ma le spiego perché, non la sto prendendo in giro. Anche alcuni ascoltatori stanno mandando gli sms, davvero glielo dico, e qui dicono, ma questa persona è straordinaria, ci piace per la comunità di cui si occupa, che è un grande esempio storico di come si disciplinavano i beni comuni, e l'utilizzo dei boschi, vero, proprio vero, questi, no? Rispetto... Storia d'Italia. Questo è un pezzo fondamentale, ma anche europea, quella che ci ha preso il Nobel, è proprio perché ha studiato cose, casi simili, ma molti ascoltatori ci dicono, ma che bello, ma gli ricordate per favore che tra qualche settimana l'Italia, dopo che voto, potrebbe avere qualche guaio e ci sarebbe bisogno di persone ragionevoli come lui, che non buttano la colpa sugli altri, che dicono ma siamo costruttivi, ma sì, per l'incazzatura uno manderebbe a quel paese, ma invece ci riflette e dice ma no, dai, facciamo le cose bene, non sempre vengono bene, ma dobbiamo farle meglio. Guardi, qui c'è un coro, lei secondo me dovrebbe costare l'ipotesi di liberarsi, perché a marzo per il governo italiano mi sa che servono persone come lei per la prorogata. No, ma davvero. E chi accudisce gli alberi può accudire una notte. No, ma era una maniera, però davvero c'è un ascoltatore che l'ha detto, è semplicemente per far notare che ha un tono che rispetto alla maniera italiana, no, ci hanno fregati, capisce? Invece no, lei è, complimenti. Allora Oscar, Stefano, scusi, si apprestano certe cose. Dica. No, ripeta la battuta che mi ha fatto ieri, memorabile, quando parlava dei 900 anni di vita, e lei mi ha detto, beh, negli ultimi 1000 anni un caso così non c'era capitato alla magnifica comunità. Senta, ma io e Giannino possiamo avere la tessera onoraria magnifica comunità? No, aspetta, dobbiamo prima lavorare nei boschi per qualche mese. Le porto, no, Oscar, dovete, li mette in mano una scure. Dovete vivere in Val di Fiemme per 30 anni. Oh, ma se è una condanna, io vado di fronte al giudice ma felice. Ma sta scherzando, non c'è lo ius soli della magnifica comunità. Se uno sta a 30 anni può appartenere? Sì, deve risiedere 30 anni in uno dei comuni della valle, ma per una questione storica. Sì, sì, ma c'è questo legame di appartenenza, no? Esatto. Perché i boschi sono una proprietà collettiva, lei diventa anche comproprietario, pur non potendo vendere la sua quota, perché nessuno la può vendere, è indivisibile, però partecipa alla gestione dell'amministrazione, può diventare siamo estasiati. Un consigliere d'amministrazione. No, ma Ius Fiemmi. Ma via il passaporto italiano, ma andiamo lì per 30 anni. Io preferisco essere cittadino della Magnifica. Siamo italiani al 100%. Lo so, com'è il simbolo? Com'è il simbolo della comunità? Simbolo storico è una croce su tre colli, che c'è tutta un'araldica dietro di significati che adesso però non deve chiedere a me perché ma vede il povero spelacchio ne hanno portato in un posto dove ce ne sono sette e lui a quel punto ha perso la testa il povero pubblicità spelacchio. Ciao cani e gatti, fra poco torniamo. Mattino. Rieccoci cani e gatti, mentre entriamo nelle 8:38 minuti e una manciata di secondi, e Giuliano da Milano, attento Oscar, tu li hai definiti interattori e guarda cosa succede sulla cosa che avevi appena raccontato come un misfatto. Giuliano da Milano, colpo di scena. Giuliano? Eccoci, ecco. Giuliano. Vada. Allora, ho sentito, non è un appello, però mi spiace che non avete più, avete distrutto i nastri. No, non ho distrutto, la RAI non ne ha l'integrale perché ecco, la versione ecco. È che nel trasferimento dei nastri Giuliano. Magnetici... ma invece? Ah, invece io avevo parecchi nastri che ho traslato in MP3 e li ho trasferiti su CD. Ma infatti, quindi a tutti i nastri, capisci il cittadino? Non li ha tutti, buona parte, però, no? No, li ho buona parte. Però più della Rai, che col canone non li custodisce, lui li ha custoditi in MP3. Vedi, allora, proposta, ce ne faccia dono. Ora organizziamoci, Giuliano, per trasferirci qualcosa e noi restituiremo alla comunità degli interattori, dei cani e dei gatti, un frammentino di altro Mario gradimento al giorno Bracardi, per un po'. Come i donatori, come i mecenati che restarono le cattedrali, la piramide di Roma, la ristrutturata un giapponese, lei ci dà i nastri che la RAI non ha tutelato. Grazie. Adesso per inviarveli cosa faccio? Poi ci sentiamo, tanto abbiamo il numero. Ho un'idea. Ci rivolgiamo con un affidamento diretto alla stessa ditta che ha trasferito Spelacchio. Esatto, no, perché sicuramente la RAI direbbe che comunque la sua proprietà intellettuale non si discute e ci manderebbe la finanza a noi. Quindi, conoscendo lo Stato che il suo mestiere non lo fa, ma ne fa di impropri e invasivi, cercheremo di farla dalla maniera giusta. Li recuperiamo, esatto. Non si preoccupi. Grazie. Buongiorno a Nicola Fratoianni, qui con noi, fra i cani e gatti. Buongiorno, ha sentito Fratoianni la rivelazione su Spelacchio, questa meravigliosa comunità di boscaioli che ha donato quest'albero a Roma, e sono rimasti un po' male perché loro hanno mandato Florido, è arrivato deperito. È una metafora dei tempi, eh? Sì, mettiamola così, una metafora dei tempi. E voi avete le foglioline e hanno suscitato tanta polemica. Allora, è maschilista questo simbolo di liberi, libere, uguali o no? Le foglioline erano le donne oppure no? Iniziamo subito dal tema che appassiona i social. Sì, intanto è curioso che sia questo tema ad appassionare i social mentre succede di tutto. A cominciare, per esempio, fatemelo dire, da una vicenda incredibile sulla quale voglio esprimere solidarietà, quella dei lavoratori e delle lavoratrici della Ryanair, che in questo momento vivono una situazione agghiacciante, hanno proclamato uno sciopero e l'azienda non ha trovato di meglio che minacciare i lavoratori e le lavoratrici di ritorsioni rispetto all'organizzazione dei turni, alle promozioni, allo stipendio, no? Per chi dovesse aderire allo sciopero. Questo è il paese nel quale viviamo e che invece tende ad appassionarsi a tutt'altre questioni di scarso interesse. Però, rispondendo alla domanda, questa è davvero una polemica incredibile. Quel segno grafico è un segno grafico che dice una cosa sola, è una I che diventa una E per dire, indicare, alludere a un fatto semplice per chi ha gli occhi per capirlo, cioè che il mondo è fatto di due, il mondo è fatto di uomini e donne, e quella I che diventa E dice che noi siamo liberi e libere, naturalmente, e uguali, e questo è l'obiettivo di quel segno. Tutto il resto è francamente quello di cui si discute molto in questo periodo, è una vera fake news. Piero Grasso non ha mai detto che le foglioline sono donne, ha detto tutt'altro, ma qualcuno ha pensato bene, chiarita una polemica. Questa cosa che era doveroso, oggi è il giorno della prorogatio. Io e Oscar non siamo entusiasti, due giorni, tre che ne parliamo della prorogatio, perché a prescindere dalle idee che si ha, e se si vota è per scegliere un governo, cioè siamo un po' preoccupati dell'idea che si continua comunque a prescindere dal consenso e dalle libere elezioni. Cosa pensa lei, Fratoianni? Ma io penso questo, che in questo caso siamo di fronte a un fatto un po' surreale, più tipico del modo di discutere di questo paese, perché tutti sanno che il governo uscente, perfino qualora fosse dimesso, resterebbe in carica fino all'insediamento di un nuovo governo per gli affari correnti. Dunque non siamo di fronte a una novità, c'è invece la novità di un dibattito che prova a rimuovere non solo le ragioni di una campagna elettorale, ma anche la discussione sul dopo, e lo fa come sempre discutendo di formule astratte, di quadri politici che poco dicono alla Ma quindi voi siete contro la prorogatio? Scusi, perché non l'ho sentito chiaramente, forse non ho capito. Siete favorevoli o contrari al fatto che resti Gentiloni? Ma ripeto che io sono del tutto contrario alla continuità di un governo i cui contenuti e le cui scelte non mi convincono in nessun modo. Un governo che ha espresso la massima continuità con i governi di questa legislatura che noi abbiamo avversato in Parlamento e nel Paese. Ma la verità è che dopo le elezioni misureremo forze e contenuti. Se ci sarà la possibilità di formare altre maggioranze, si formeranno, altrimenti io credo che si dovrà tornare alle elezioni e su questo costruire un'altra maggioranza. Ma ripeto, cominciare ora questa discussione è un po' curioso, perché questa discussione rischia di cancellare dall'attenzione del dibattito pubblico i contenuti, le proposte, i programmi che le singole forze avanzeranno in campagna elettorale. Discutere oggi di quello che accadrà dopo, prima ancora perfino che i programmi vengano presentati, che la campagna elettorale cominci, appunto dà il senso di come discute questo paese. Oscar, una discussione molto politicista e poco di merito. Sì, forse davvero un po' troppo politicista, perché se significa farsi trascinare sempre di più, è un po' un'impostazione in cui anche l'informazione secondo me ha la sua responsabilità. Però detto tutto questo, posso chiederle una cosa, ma di tecnica, in questo caso non politicista, ma spieghi a chi è in ascolto. Cosa succede in concreto, secondo lei, nella sua esperienza, quando si tratta tra più sigle di dover decidere i collegi uninominali insieme? Cioè, quando anche nascono soggetti nelle settimane precedenti alla decisione della lista, no? Noi siamo arrivati in un dialogo aperto a sinistra tra il PD che era uscito, molti movimenti diversi, molte cose eccetera. Allora, a un certo punto si sta parlando di una decisione di scioglimento, in pratica contestuale a quella del capo dello Stato, tra pochissimo, e poi inizia immediatamente il conto alla rovescia. Quando le espressioni che devono trovare candidature comuni arrivano ad averlo deciso in questa maniera collettiva, confrontandosi insieme duramente, così drasticamente, poi alla fine cosa succede? Vengono nominate tre persone e si chiudono per 48 ore in una stanza e decidono loro. Ci fa capire nel vostro caso come funzionerà? Ma nel nostro caso ci sarà una discussione nazionale che si farà a Roma, che riguarderà la costruzione di una lista, i suoi criteri, la ricerca delle candidature migliori, della possibilità di dare alla lista la forza di rappresentare non solo le energie dei partiti che l'hanno in qualche modo costituita, che hanno contribuito a fondarla, ma la possibilità di rappresentare le esperienze migliori di questo paese, come abbiamo provato a fare anche il giorno in cui è stata presentata la candidatura di Piero Grasso, è stato presentato Liberi Uguali all'Atlantico Live. Però lì su un leader è più facile capire come si fa a convergere. La valutazione di della persona che guida, cioè, sono valutazioni politiche. Ma in questo caso, quando diverse sigle hanno il loro esperto e si siedono, e non essendoci, cosa fa? Perché non è che ai microsondaggi dice: intanto partiamo da un principio, a te 8, a me 9, a lui 5. Non si fa così. Quindi è complicato. E questo che è la domanda concreta, la risposta è: come si fa a trovare la soluzione a quel punto? No, la risposta è molto concreta. Se riguarda noi, se riguarda le altre coalizioni, no, voi. Se riguarda noi, che siamo una lista, un'unica lista, nessun la problema. Risposta è molto semplice: verificheremo tutte le disponibilità, anche tutte le ambizioni di candidatura, tutte le disponibilità, tutte le risorse disponibili, tutti quelli che diranno di voler essere parte di questo percorso, e proveremo territorio per territorio, a partire dal rapporto col territorio, dalla qualità, dalla ma capacità, badando a fare più eletti possibile o a candidare gente che magari non verrà eletta agli uninominali, perché diventa però il loro obiettivo levare il più possibile di voti contro candidati importanti del PD, per essere chiari? Ma intanto l'obiettivo è sempre quello di eleggere il massimo numero degli uomini e delle donne possibili. E poi, diciamo la verità, il problema è che spesso sarà il PD a spuntare, a togliere voti a noi. Anche questo, diciamo, racconto per cui sembra che qualcuno si candidi a perdere qualcun altro è un po' curioso, e soprattutto è curioso che sembra che siamo noi che dobbiamo far perdere i voti al PD. Io dico che semmai è il PD che deve preoccuparsi, come dice quotidianamente, della destra, ed evitare di far perdere i voti a noi. Allora c'è con noi, saluto Nicola Frattoianni e anche Elio Vito, così sentiamo un'altra campana, un uomo vicino al Cavaliere. Elio Vito, lei che è di formazione radicale, anglosassone, maggioritaria, ora lo so che un po' la mettiamo in imbarazzo, però non mi sembra che possa essere entusiasta per la proposta di continuità del governo Gentiloni, anche perché è strano, siete il centro-est, dovete prendere i voti e dite che va bene quello che governa. Il presidente Berlusconi ha detto una cosa ovvia. Io non capisco davvero che perché vi sia suscitato tanto scalpore. Ha risposto tra l'altro a una domanda, ma ha detto una cosa ovvia: il centrodestra punta a vincere le elezioni e siamo convinti di poter vincere le elezioni. Siamo oggi, lo sapete, la principale coalizione del paese e abbiamo le carte in regola da un punto di vista di contenuti, di programma, ma anche da un punto di vista di consenso per poter vincere le elezioni e avere una maggioranza autosufficiente. Nel frattempo che cosa succede? Lo dice la Costituzione, il presidente Berlusconi ha ripetuto semplicemente questo: il governo in carica del premier Gentiloni resta in carica fino alla formazione di un nuovo governo. Se non si dovesse formare nessun nuovo governo, ma questo non accadrà, si torna al voto. Cioè, il presidente Berlusconi ha ricordato una cosa banale, tant'è vero che tutti state dicendo che giustamente, che contrariamente alla prassi, il premier Gentiloni questa volta non si dimette, non resterebbe in carico per l'ordinaria amministrazione con lo scioglimento delle Camere, proprio per garantire questa continuità. Quindi davvero non capisco dove lo sia. Non è che noi sosterremmo un governo con il PD, noi non vogliamo sostenere nessun governo con il PD, né tantomeno la continuità del governo Gentiloni, ma Gentiloni resterà in carica fino alla formazione del nuovo governo, che sarà il governo di centrodestra. Interpretazione autentica. Di aver, nel mio piccolo, contribuito a chiarire una polemica che ho visto ieri, l'apertura del TG1. È l'apertura di tutti i giornali, però non è che ce la siamo inventati noi, tutti i giornali, tutti i telegiornali, perché ovviamente è diventata notizia la presentazione del libro di Vespa in cui Berlusconi ha detto questa frase. Grazie Elio Vito. Oscar, tira un po' la sintesi di questa cosa, perché vedo messaggi di ascoltatori interdetti, chi è annoiato, chi è preoccupato, chi dice bisogna far saltare il tavolo. La sintesi come la vedo io è questa: hanno concordato i vertici del PD e di Forza Italia una legge elettorale, anche poi la Lega l'ha votata, che è costruita apposta, come sapete, costruita apposta perché non vi sia una maggioranza coesa scelta dagli italiani, cioè per far decidere poi la politica a mani libere dopo che avrete votato. Vi è chiaro questo, che l'ascoltatore? Perché questa è la sintesi della legge Rosato. Quindi si comincia dicendo il governo Gentiloni, preserviamolo per il futuro. Magari uno può avere un giudizio ottimo, migliore del precedente o peggiore del precedente, ma non stiamo parlando di questo. In questo caso stiamo parlando del cosa si vota a fare, per così dire. Ecco, già secondo me nella dichiarazione di Berlusconi si capisce che, come dice Elio Vito, perché stupite? La legge elettorale l'abbiamo fatta per questa. Ecco, questo, io trovo che questo sia il vero senso politico. Naturalmente Elio Vito non ha detto, non abbiamo fatto la legge elettorale per continuare ad andare avanti e a trattare politicamente, però di fatto, come vedete, il primo pezzo è sul tavolo, cari ascoltatori. Tratteranno riservatamente per i fatti loro, perché la legge elettorale è costituita apposta per questo, punto. Allora, molti echi nei vostri messaggi sulla telefonata di Stefano Cattoi, chi elogia il fiemmazzo, perché caro Oscar si dice fiemmazzo. E non fiemmino, ma è meglio non dirlo troppo sulla parte finale della parola, sennò poi le rime, capisci, fiemmazzo, no. Siccome servono 30 anni per acquisire la cittadinanza della comunità, io e Oscar abbiamo un'aspettativa di vita che ci consente di poter sperare in questo evento, però anche critiche, ma pare che però accettino anche se uno muore, resta resta come concime, io resto come concime lì, e a quel punto i miei figli vengono però fatti parte della comunità. Vengono ammessi. Ecco. No, però critiche, ah, però voi fate l'apologia di chi taglia l'albero e lo ammazza. Allora, proprio la telefonata preparatoria ieri mi ha spiegato che non è così, la foresta ha bisogno di un ciclo biologico in cui gli alberi devono morire spazio agli altri, stanno in un ciclo e quindi c'è un eco parametro che dice quanti ne puoi togliere e quanti ne devi tenere, quindi esatto. Non c'è nessun sacrificio nella comunità. Questo... di quel tipo strage di alberi, le comunità sono nate apposta per preservarli, pensa, perché erano un bene comune, ripeto. Però voglio prendere questa cosa perché qui siamo anche, siamo politicamente scorretti, anche contro l'integralismo. Non è che se tocchi un albero, mangi un capretto, distruggi il mondo. Ecco, se vi piacciono queste idee, io almeno so che Oscar magari è un po' più integralista di me, ma credo che su questo non piange se mangia una bistecca. No, io sono per un, assolutamente, io sono costretto a pagare le tasse, quindi faccio sport molto più rischiosi nella vita che mangiare ogni tanto una bistecca, quindi se mi depreda lo Stato. E io dico che anche bisogna farlo, pensa un po', quindi figurati se mi sento in colpa perché ogni tanto mangio qualche proteina animale e lo Stato si nutre della mia, le proteine animali. La proteina fiscale, esatto. Non ti ho sentito godere per Fiorello che è riuscito a dimostrare di non essere di non dover pagare l'IRAP. Hai ragione, ma io penso che la campagna contro i nomi noti rimbalza, come nel caso di Orietta Berti o di Fiorello, ogni tanto gli rimbalza sul muso allo Stato, e in questo io penso che meno male. No, la cosa che mi sdegna è la Guardia di Finanza, il fisco amico, cari ascoltatori, l'avete letto? Se non l'avete letto ve lo dico io, dal prossimo gennaio, altro che fisco amico, niente più blitz di qua di là. La Guardia di Finanza dice ai suoi: potete rubare tutte le password per avere accesso ai dati in cloud, corrispondenza privata. Tra l'altro la tutela della corrispondenza privata non è costituzionale, caro comandante generale della Guardia di Finanza, l'avete abrogata voi, letterina, voi delle giacche grigie, l'avete abrogata la tutela costituzionale della giacca grigia. È brutto, sembra una cosa da Kristallnacht. No, sembrano i confederati del sud, io sto con l'Unione come ovvio. Loro hanno le giacche grigie, io sto con l'Unione ovviamente che ha le giacche blu. Però detto Claudio, questo, da Napoli. Claudio, ci sei? Pronto? Oh, pronto? Ecco, ma da dove parli? Da un baratto? Da che cosa? Spegni radio, togli auricolari, santo Dio, ancora non avete imparato. Pronto, vabbè, Oscar, e la tua notiziola qual è? Ma cos'è? L'eco dell'Eterno, ragazzi. Siamo... è l'eco dell'Eterno. È l'eco dell'Eterno. Stiamo in questa trasmissione oramai, siamo sul Monte Tabor e Luca Telese ascende oramai verso il cielo in una alugine. Vabbè, ho capito, è così. Stai sfottendo. Ma non ti sto sfottendo. Oramai io sento la tua voce con un eco come se fosse la Valle di Giosa fatto. Allora c'è questo nostro interattore da Napoli, pronto? Non c'è. E allora fatemi dire una cosa. Ieri veramente il servizio pubblico avrebbe dovuto fare la diretta del signor Zonin alla commissione parlamentare di inchiesta sulle banche. Il signor Zonin, che si presenta con il fare di un pensionato perché passava lì per caso, spaccia la sua versione dei fatti. Lui non ha saputo niente, non sapeva niente. No, ma non ricorda. Ignorava tutto, non ma ricorda. Anzi, si presenta amnesia. E dice: signori, tenete presente che io ci ho rimesso dei soldi alla Popolare di Vicenza. Uno spettacolo, perché un grande interprete della commedia italiana, un grande interprete della commedia italiana. Non è vero che bisogna essere del sud per essere grandi attori, imitatori. È un veneto. Io, se i veneti lo avessero ascoltato ieri, mi avrebbe fatto piacere, perché gli avrebbero bruciato le mani e forse sarebbe stato un bene così. Che attore! Domani, nel pieno della polemica, puntata speciale, perché abbiamo l'uomo dei cinepanettoni, del calcio, del cinema e della cultura, Aurelio De Laurentiis, fra di noi. Ciao, cani e gatti!